se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ma è possibile che sei un perro così lavori in radio? E il mondo va così. Vabbè, pazienza. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes. And apart from the frightening, the moaning, the biting, seem to be the nice guy. And I know what she thinks when she looks at me, when she looks with such despair. You're not the only one around here that needs a bit of fresh air. 'Cause I'm a sad, sad post-teen. Could I be the love machine? No gene, concrete, walking like a zombie, like a zombie. And I'm a cold train, fast lane. Could I be the dirty rain? No pain, no gain, walking like a zombie, like a zombie. Pas à leur place, mais ils ont pas envie. Tout ça. Vous avez plutôt sérieux. La position aujourd'hui du candidat par mais défaut, choisi par défaut par toute une série de gens. Alors vous devriez faire preuve d'un peu moins d'arrogance Madame Le Pen, avant l'élection. Je vous dis juste que moi, je prends les Françaises et les Français pour des adultes. Je ne leur mens pas. Je ne leur mens pas. Vous mentez. Un amico giornalista francese mi ha riferito questo piccolo calembour. Sono disperato. Siamo divisi tra una fascista e un banchiere che arriverà all'Eliseo accompagnato dalla mamma. Madonna mia, è brutta. Peggio dell'Italia. Orrei. Ma non fa ridere però. La cosa più grave. Non lo so se fa ridere o no, so che gira. Perché nessuno dice Trump arriverà alla Casa Bianca accompagnato dalla figlia? Fammi capire. Perché? Lella Costa, già che sei grande, è bene che tu sappia una cosa. Sì, dimmela. Sono pronta per saperla. Se non te l'ha detta la mamma. Sì. E cioè, la sessualità femminile comincia e finisce prima di quella maschile. Questo è quello che voi credete, ma... No. And I know what she thinks when she looks at me, when she looks with such despair. You're not the only one around here that needs a bit of fresh air. E non è mai stato inventato l'aggettivo toy girl per la situazione opposta. Perché ha scosso il costume. No, queste sono invenzioni maschili e mai gli uomini di se stessi avrebbero dato l'immagine del giocattolino. Di stare sono con la toy girl, bravissima lei. Non sono le donne. Allora... Ragazzi, ma che è successo a Corrado Augias? Niente, ossessionato da questa cosa di Macron e i 26 anni, quanti sono di differenza nella relazione con la compagna, la moglie, che è diventata moglie, non lo so manco, Brigitte, sì, è diventata moglie. Ma è ossessionato da lezione a Lella Costa, ma non so, sarà un po' l'età. Ecco, visto che chi di età ferisce, sarà un po' l'età, un po' le paturnie, non lo so. È ossessionato da questa cosa, no? Burattini. Eccoli. Mamma mia, ragazzi. Adesso non esageriamo. In generale, in generale, De Luca, così. In generale. Che spettacolo. Allora, sono le 6:29 minuti. State tranquilli, state sereni. Non siete voi che siete in ritardo questa mattina. Siamo noi che siamo in anticipo. Quindi... è partita la sigla già, oddio sono già le 6:30, no, è partita prima alle 6:24 minuti e quindi siamo noi che siamo in anticipo. Volevo anche tranquillizzarvi per un altro aspetto. WhatsApp funziona, funziona. Potete mandarci i vostri WhatsApp al 349-238-6666 anche in audio. Ieri c'è stato, ieri sera, un WhatsApp down. Sei contento? No, io non sono contento, Presidente. Anzi, c'è stata mezzo mondo nel panico ieri sera. Consolazione. Gente che non si riusciva a mandare i messaggini. WhatsApp. Diamoci alla contemplazione. Effettivamente, se uno non può mandare messaggini, potrebbe, caro Presidente De Luca, fare così. Ma sono cose sconvolgenti. Invece ora funziona tutto, tutto. Vedete qua, saluti da Marco Monteveglio, sempre presente, 9 gradi. A Monte Carlo, 13 gradi. E ci sono i poveri perché siamo in provincia di Lucca, ci scrive Dario. Monte Carlo, controllami un po', Lorenzo. Monte Carlo, Lucca, non Monte Carlo, Principato. Monte Carlo, Lucca. Palermo, 17 gradi. Giuseppe ci fa sapere questo. Se anche non ci chiamate su WhatsApp, ci fa una cortesia, caro ascoltatore che ci chiami in questo momento. Non è che ti posso rispondere su WhatsApp. Comunque, Monte Carlo, Lucca, confermiamo. Adesso quando finisce la chiamata, così posso continuare a leggere gli altri WhatsApp. Dresano, 10 gradi, piove. A Pescara sul mare 12 gradi, ci fa sapere un ascoltatore. Mentre a Sovere, in provincia di Bergamo, 8 gradi e pioggia battente. Un saluto anche a Diego. A Perugia 11 gradi, pioggia sottile. Mi piacciono anche queste descrizioni. Luca, buongiorno, buongiorno anche a te. Saluti da Amman, ci stanno ascoltando da Amman. 13 gradi, Giordania. Andrea. Ma vi giuro questa, A Cantù 9 gradi. Ma Aurora è sparita. Vi giuro, un messaggio. Sarà suo zio. Sarà l'Aurora, sarà suo zio, sarà sua cugina. È tutto organizzato da te. Guardalo qua. Aurora, ciao. Ma buongiorno Milan. Cantù 9 gradi. Sì, confermo. Ma Aurora è sparita? Mi scrivono così. No, sono qua a Cantù, sono dietro a dire il rosario, che è il mese mariano. Porca miseria. Non è che hai sbagliato radio? No, chiamo padre Livio Fanzaga, no, vuoi no, parlare no, con no, lui? No, dopo vado anche su Radio Maria, dopo aver sentito... No, non ci credo. No, sì, no, mi fanno sulla moschea qua a Cantù, Milan. Ti fanno sulla moschea? Mi fa la moschea, sì. Ma vai su Radio Maria? Ma no, questa è finta, questa cosa che vai a Radio Maria, ospite. Ma figurati. No, vado a chiedere asilo politico a Radio Maria, perché mi fanno sulla moschea. Ti fanno sulla moschea. Giuro, via Milano a Cantù. Via Milano a Cantù. Sì, attenzione, a Via Milano Cantù, se vedete un cantiere, il cantiere di Cantù, che era come il pompiere di Vigiù, il cantiere di Cantù è per la moschea. No, il dramma è che hai comprato il capannone, sono lì dentro a pregare. Avrà comprato regolarmente, pagando. E certo, però per fortuna qua in Lombardia noi abbiamo il Maroni che ha fatto la legge sulle moschee, che se non hai... No, sì. Non hai tutta una serie di vincoli di garanzie accessorie, non la fai la moschea. Quindi che qua... vincoli sono? No, scusa, non è che uno si alza la mattina, compra un capannone industriale, poi chiede l'estensione. Sì, perché si convertono anche. Seguiranno tutte le norme per fare la moschea. Qua bisogna vedere, preghiamo tutti insieme. Preghiamo tutti insieme, cari ascoltatori. Andiamo in onda anche un po' di Radio Maria adesso. Ma certo, arriverà la Lega Cantù. Sentiamo. C'è padre Livio Fanzaga in onda in questo momento. Andiamolo in onda per 10 minuti. Inferiati della galera. Ho visto, guardato dentro, tra le informazioni, tu. Vuoi dire qualcosa? Vuoi Aurora? Cosa devo fare? Qua aspettiamo che venga su alla Lega Cantù. Preghiamo, non si capisce con quale sequenza. Speriamo che venga sulla Lega e preghiamo, oppure preghiamo perché speriamo che venga. Ma non ti candidi tu? A proposito, ma cosa fai? Il rosario suonato? Cosa c'hai sotto? Cioè, cosa canti? C'è un po' di musica mistica che fa bene anche alla bambina. C'è sul Morricone. Morricone. Per Benedetta. Sì. Benedetta si sveglia così. Il Gabriel Fobor. Va bene, signori. In questo clima oserei dire ecumenico. Vorrei salutare anche Angelo Maria Perrino, direttore di affariitaliani.it. Buongiorno. Eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti. Ti senti già un pochino in clima, come dire, un po'... elettorale. No, elettorale. Ah no, ci sono le elezioni. No. No. Ecumenico. Perrino, vuoi dire anche tu un po' il rosario? Ti abbia messo anche Morricone dal mitico film, quello dei missionari, lì come si intitolava? Mission. Sì, vabbè, sai, a quest'ora non mi vengono le parole. Sì, dai, se è il caso una preghiera non guasta mai, sì, l'uomo che prega è sempre rispettabile. Sì, ma per che cosa? Per far abbattere la moschea, cioè fammi capire. Cantù cristiana, no, ma è musulmana. Cantù cristiana. No, a quello ci pensa la Lega se arriva, com'è, come si diceva. Ma mi risultava che si candidasse una certa Aurora Lussana, ma... ci ha provato. Ah, no, qua Cantù no, si candida Edgardo Arosio, che è bravissimo, della Lega. Edgardo Arosio. Sì, sì, tutta la coalizione del centrodestra unita, qua Cantù a sostegno dell'Edgardo. Oh, finalmente abbiamo ricomposto il centrodestra. Il caso Cantù, Perrino, potresti fare il caso Cantù, centrodestra che si riunisce a Cantù. Modello un Cantù. Giallo degli anni 50, cioè quando questi grandi personaggi sì. ammazzavano le mogli, no? Il caso Cantù. Faccio brutto di Cantù. Esatto. Signori, allora, dobbiamo aprire il Parlamento perché ci sono tante belle notizie. No, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Intanto, forza, se volete forza, la questione ONG, e se volete figurarsi se qua con Aurora Lussano non ne parliamo. Poi c'è il caso vaccini col New York Times che in pratica, vabbè, un pochino esagera, cioè praticamente dà a Grillo la colpa del morbillo, tanto che Grillo oggi prende carta e penna e scrive sul Fatto Quotidiano e dice: mi sono ritrovato così un mercoledì mattina accusato di diffondere il morbillo. È vero che i suoi spettacoli qualcosa insomma hanno detto contro i vaccini, questo sì. Poi c'è, no, questa della legittima difesa è fantastica. Allora partiamo da qui, cambiano la legittima difesa, ora si potrà sparare al ladro ma di notte. Di notte, se siete nel panico, di notte, se è di giorno sperate in un'eclissi di sole, se arriva un ladro, se no è un po' un casino, caro. La sai bene perché sappiamo noi perché. Partiamo da Perrino perché qui sono questioni familiari. Perrino, ma su questa legittima difesa, ma perché non si riesce a dire una volta buona per tutte? Se ti entra uno in casa si può sparare, visto che è proprietà privata, se uno ha la pistola, ovviamente. Io penso che qui paghiamo una delle tante ambiguità della cultura di sinistra, che fa sempre le cose a metà, ha sempre paura di portare le sue stesse riflessioni alle conseguenze più logiche, si ferma a metà strada e quindi fa leggi un po' ambigue. In questo senso ha ragione Salvini e chi sostiene. Attenzione. Che se tu vieni in casa mia per aggredirmi, io ho il diritto di difendermi nel modo più assoluto, sempre e comunque. È una banalità, un'ovvietà, ma in Italia, dove così non se vi pare, non si può fare. Non si può dire, bisogna vedere se avevi il panico o non avevi il panico, se notte o giorno, qual è lo... materia per magistrati, sì. No, ma ditelo, volete far lavorare gli avvocati? Ditelo su queste cose, perché poi è tutta battaglia capziosa di avvocati, di quello che ti sa difendere meglio, quello che sa interpretare meglio la definizione di panico o panichetto, paura, paurina, pauretta. Mi ha fatto bu, era dietro l'Italia, ci si mette d'accordo sempre poi. Sì. L'Italia. Oh, che bella. Ecco, allora, ieri c'era un certo signore, il signor Nicola Molteni, in Parlamento, era discretamente arrabbiato sulla questione della legittima difesa. Era abbastanza infuriato sulla questione della legittima difesa. È tornato a casa ieri sera, vi siete sentiti, è a Roma. No, perché era arrabbiato? Cosa stanno combinando a tuo marito in Parlamento? No, perché poi il provvedimento era licenziato di fatto stamattina, quindi è rimasto ancora giù con la Boldrini, quindi oggi... lasciano giù con la Boldrini, finiscono oggi, poi dovrebbero votare i giudici costituzionali, ma non c'è, può arriverà su stasera, non lo so. Comunque, vabbè, forse arriverà, arriverà Cantù, Nicola Molteni, marito di Aurora Lussani. Eccola, sì, il padre della... Di Benedetta, il padre di Benedetta. Allora, no, hanno fatto sta porcata qui, nel senso che... la Lega proponeva di riformare una legge già riformata nel 2006 dal bravissimo ministro di giustizia, figurati, Roberto Castelli. Castelli, ecco. Bravissimo. No. In questi 10 anni... Dove è finito Castelli? Dove è finito? Non lo so. Dove... Fa l'ingegnere. Fa il militante della Lega. Ma sì. Con Bossi o con Salvini? Non si sa, esatto. È molto vicino a Bossi, sì. Sta sì. Tutto per lui. La vecchia guardia è rimasta. Vedi. La vecchia guardia è rimasta a Bossi. Vabbè, che cosa ti hanno fatto? Cosa hanno fatto allora, su questa legittima difesa? No, allora, praticamente... loro sono arrivati in aula ieri con un testo stravolto perché hanno capito che la gente è molto molto sensibile sulla materia, no? E quindi hanno voluto recepire alcune robe della Lega, sì. Però di fatto perché è una legge truffa, perché tu non vai a modificare il concetto di proporzionalità offesa-difesa. Appunto. Quindi se non vai a modificare la proporzione tra offesa e difesa, lasci sempre tutta la discrezionalità al giudice. È quello che si diceva. Cioè... Quindi, cioè, cosa voleva il Molteni? Cioè, se uno ti entra in casa, puoi sparare. A parte che intervista il Molteni, voleva giù con la Laura. Allora, a parte che intervista il Molteni, non me. Comunque mi pare di aver capito che lui dice: noi teniamo l'elemento oggettivo, non soggettivo, no? Per cui io presumo sempre che chi mi entra in casa è lui, no? Lui la colpa. La casa è un'estensione dell'individuo. Ma è chiaro, cioè vuole questa cosa che Perrino, anche tu dici, è normale, è giusta, è legittima. Ma qui la gente di sinistra che vuole il monopolio della violenza allo Stato, per cui il cittadino deve rimanere imbelle, impaurito, indifeso, barricato nella sua casa. Questa è la cultura della paura. Adesso. L'uomo libero è nato. Okay. E poi non c'entra la pistola, perché tu non vai a modificare il porto d'arme con le robe lì. Perché io gli tiro anche... Hai presente cos'è il tarello della polenta? Sì. Se ti arriva in testa ti fa male. Te la vedi Perrino Aurora che difende la casa col tarello della polenta. Aspetta Aurora, a che proposito dici? Di ambiguità, di cose che restano un po' a metà, anche questa vicenda della stazione centrale di Milano, sì. E ieri sembra replicata a Roma. Sì. I blitz della polizia. Quando in tutti i paesi del mondo davanti a situazioni di questo tipo si procede a identificazioni un po' così. Ma un sì, po' ma forti. Infatti io veramente non capisco, ma ho anche identificazioni, cioè, voglio dire, come fai a identificare delle persone che se si avvicina alla polizia scappano? Perché scappano dalla guerra, sono abituati a scappare, scappano dalla guerra. Però vedi, no? La sinistra dice non ci convince, il sindaco Sala, devo capire perché è stato fatto. È stato fatto perché il prefetto ha ritenuto che ci fossero gli estremi per farlo. Sì, lì se oramai nessuno fa il suo mestiere, tutti si infilano nelle questioni altrui. C'è anche da dire una cosa, che forse lì è stato fatto a Milano perché 10 giorni fa è stato aggredito un poliziotto nel tentativo di identificarne alcuni, e questo poliziotto ha avuto un polso rotto, eccetera. E questo ha tentato di disarmarlo. E questo un pochino il fastidio di pensare che è stato fatto anche per questo, no? Cioè, perché hanno toccato, come dire, nel vivo la polizia, in questo caso, dici, vabbè, allora se lo devi fare per un ripristino, o no, Perrino, un ripristino della legalità, non è che lo devi fare perché, come dire, però, con una sorta di ritorsione o come una sorta di... Ma questo garantismo peloso, quando la polizia interviene in tutti i paesi del mondo, si deve chiudere un occhio, lo fa nel nostro interesse. Cioè, voglio dire, se abbiamo questa situazione di emergenza e la stazione centrale di Milano basta passarci e si capisce, un disastro, è diventato un disastro. Insomma, non è che puoi fare quelle azioni come fosse un pranzo di gala. È ovvio che si sa anche che a volte questi qui reagiscono, no? Abbiamo visto che anche a Milano a volte le hanno suonate i poliziotti, scappano via quando non sono vestiti come si deve, preparati, attrezzati. Quindi, insomma, siamo sempre alle solite, questa cultura della sinistra, nella quale io mi riconosco da una vita, per carità, ma ahimè, mostra tutta la sua inadeguatezza in certe situazioni. Contemporanea. Ma infatti io credo che un controllo del territorio, cioè sia una cosa banale, normale in qualsiasi paese. Certo, è successo a Roma ieri che dopo il controllo è morto un senegalese, ma tutte le testimonianze raccontano raccontano anche oggi sul Messaggero, le vedrò in rassegna stampa, di questa persona che è fuggita e mi spiace a tutti, ha avuto probabilmente un infarto, questo senegalese di 52 anni, è subito partita, l'hanno aggredito, l'hanno picchiato, retata della polizia, fascismo. Noi siamo contro la polizia e dimostrino che è vero il contrario. Siamo contro la polizia a prescindere, comunque. Sì. Titolo del manifesto di oggi, polizie di primavera. Ovviamente c'è la foto della polizia. Ma sì, perché chi pensa all'ordine, al decoro, alla sicurezza, puzza sempre un po' di fascismo in questo paese. Mentre un paese... O di leghismo. Il tema della sicurezza, la sinistra col tema della sicurezza non riesce a confrontarsi. La sicurezza è uno dei temi delle società contemporanee e lo si lascia in mano poi ai populismi, quelli che loro definiscono i populismi, capisci? Sì. Ma scusa, cos'è che provi quando passi per la stazione centrale? Perché provi questo fastidio? Non ho detto fastidio, è una situazione un pochino di insicurezza. Ho detto insicurezza, è una situazione abbastanza disastrosa, non devo andare alla stazione di Milano, basta scendere sotto casa, abita in Viale Monza, esco alle 5 del mattino, è pieno di spacciatori, e io lo dico, l'ho sempre detto in serenità, se io scendessi e trovassi due camionette della polizia scenderei e il cuore mi batterebbe 60 battiti al minuto. Mm-hmm. Se scendo e vedo 5 spacciatori che non mi hanno mai fatto niente, però il cuore va a 110, perché dico, questa mattina, come tutte le altre mattine degli ultimi 7 anni, mi faranno niente? Oppure mi faranno qualcosa? Ecco. Comunque io quando abitavo a Milano abitavo almeno nella via dei trans, degli spacciatori. Me lo suggerisce Lorenzo Nespoli, poi sono lì a lavorare, fanno il loro lavoro. D'altronde tu, se incroci un lavoratore, non so, che c'ha la cazzuola a Bergamo, lascia giù la cazzuola e ti dà una sberla. Continua a lavorare, e anche con me continuano a lavorare tranquillamente, non mi dicono niente. A volte magari se passi ti guardano, ti dicono anche ciao, buongiorno, come va? Mi incuriosiva questa cosa che, insomma, passeggiare in stazione centrale, insomma, è una cosa che ti crea un po' di turbamento, ti perturba un po', però ecco, era per capire, no, se c'era un fondo anche di xenofobia. No, poi sai, la sensazione nel vedere tanti di questi giovani lì che aspettano, non si capisce bene che cosa, sì, e che inevitabilmente poi saranno consegnati alla malavita, perché accoglierli senza dargli un lavoro, una prospettiva, e lasciarli senza soldi. Però vogliamo dirla tutta, no, la dico dopo il traffico, perché come sono andati poi i controlli l'altra volta a Milano, come si sono conclusi, dopo il traffico diciamo. Faircam Air & Ocean non conosce confini, spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo, faircam.com. Vi presenta Milan. Certo che farci tu la morale a noi sui cazzi degli altri, sugli affari degli altri, tu che ci vivi su queste robe qua, ci fai un'ora e mezza tutti i giorni sui cazzi degli altri, porta pazienza, dai. Io avrei votato Antonio La Trippa. Sì, però nessuno parla dei 4 milioni di euro che sono entrate nelle casse del PD. Ciao Milan. Ma come continua con Pinocchio la storia in Italia? Non vado più in politica e torno e intorno. Che è sta storia? Ma che gente c'è in Italia? Ehi, buffone! Vi sono però poi anche altri interessi in gioco che vanno pure considerati, e tra questi la impossibilità, a mio avviso, di ospitare in Italia la migrazione di carattere economico. Questo è il procuratore Zuccaro di Catania che insiste. No, come sono finiti i controlli di Milano? Guardate che lo racconta il Corriere della Sera, perché poi dopo finisce tutto in burletta. Li hanno presi una cinquantina alla stazione centrale, li hanno portati alla questura. Dai controlli zero arresti, zero posizioni strane, anzi 4 che erano stati fermati sono arrivati in questura e hanno scoperto, grazie a questo blitz, che la loro domanda da profughi era stata regolarmente accolta, caro Perrino. Quindi gli abbiamo evitato anche la coda. Sono stati evviva, grazie, grazie. Cioè, capisci? Capisci? No, e quindi voglio dire, quelli lì, per esempio, Aurora, quelli lì che per te ciondolano alla stazione, erano persone che avevano fatto la domanda di profugo, aspettavano da mesi in questo limbo e sono regolari adesso. Sono, cioè, regolari nel senso... accolta la domanda di profugo. Perché c'ero stato di rifugiato, che una cosa, poi c'è permesso umanitario. E gliel'hanno accolto, Sì, no, vabbè, ma figurati, perché qua accogliamo il mondo. Quindi fuggivano perché fino a ieri erano, come dire, clandestini in quanto sospesi in questo limbo. E adesso sono legittimamente in Italia. E come il casino che si monta contro il procuratore Zuccaro. Zuccaro. Mi sembra una persona molto seria, molto rigorosa, non sembra Woodcock, voglio dire, non uno. Stai attento, però insomma mi sembra una persona molto a modo, molto posata, non uno che fa la dichiarazione per strappare il titolo sui giornali. E lo si lasci lavorare, voglio dire, che cosa ha detto di male, se non appunto... Che alcuni, che non sono tutti filantropi, che non sono tutti filantropi. Ha detto una cosa ovvia, sappiamo che indagando in quel mondo, che spesso si trova legibus solutus, quello del terzo settore, perché nessuno ci guarda dentro, perché... Ragazzi, sembra la puntata ideale per Aurora Lussana, dovremmo invitarla. Ciao Aurora, come va? Come va? Tutto bene? Tutto lo si lasci lavorare, basta. Basta. Come in tutti i fenomeni sociali, magari c'è dentro del maccio. E se non riusciamo a farlo lavorare, candidiamolo magari nella Lega. Adesso conquistate anche il Sud. No, Italia i magistrati si candidano sempre a sinistra, tranquillo. Povero, no, l'ha massacrato, l'ha messo alla gogna, hai visto? No? Alla gogna. Viva Zucker, dillo così, urlalo. No, ma è serio, non è che fa il fenomeno anche ieri. Insomma, nell'audizione, insomma, è una persona competente che conosce il fenomeno. Però in Italia. Ma cosa ne sai tu? Ma non sapevi dell'esistenza di Zucchero fino a due mesi fa. Però mi piace. Pensavamo che fosse un bluesman. Esatto, Zucchero Fornaciari, tu conoscevi più o meno. Però va fatto ancora valutazione. Cioè, vogliono scardinare l'Occidente. Secondo me, se passa due prove di dialetto milanese, lo candidate in un amen. Proprio. No, è perché in Italia le ONG sono intoccabili più della verginità della Madonna. Sono un dogma. E questa cultura qui, no, del mondialismo, che poi scardinerà veramente l'Occidente. Un'invasione programmata. Un'invasione che punta alla sostituzione etnica. Eccola qua, sostituzione etnica. Ma benedetta. Benedetta, nessuno la tocca. Mustafa Hamed, giù le mani da Benedetta. Sappiate che Benedetta si potrà sposare con Carlo, con Antonio. Già Antonio, forse mi risulta. Va bene. Uno si sposa con chi vuole, però qui bisogna resistere. Io voglio fare una domanda. Sì, certo. Voglio sapere dalla nostra amica, collega brava. Se ha notizie del possibile accordo Berlusconi-Salvini, a che punto sono? Oh, dai, Aurora, diccelo un po', ride. Ma perché fai finta? Perché? No, non lo so. A parte che adesso c'è il congresso nella Lega, qua a maggio, facciamo il congresso il 21 maggio. La settimana prima ci sono le primarie, cioè votano solo gli iscritti. Sì, stai prendendo tempo, la domanda era chiara. Ieri Berlusconi sulla legittima difesa mi è piaciuto, che ha preso posizione. Perché c'aveva i forzisti in aula che blandivano un po'. Prove di accordo. A Cantù è fatta. A Cantù è fatta. Vabbè, non lo sai. Giorgetti, che sappiamo essere, diciamo, l'uomo forte della Lega, diciamo, l'uomo che ragiona, l'unico che ragiona. Vediamo uno, dai. Diciamo la mente della Lega. Ne tengono uno che ragiona, almeno uno. Ieri Giancarlo Giorgetti ad Affari Italiani ha detto: Berlusconi vuole governare con Renzi. Sì, sì. Sì, ieri ho letto l'intervista, molto bella, molto bella. Anche perché voglio dire, non c'è altra possibilità per il centrodestra di andare al governo se non unito, nel senso, oppure Salvini punta al 35%, perché sai, uno ormai la gente si sveglia in Italia e pensa di diventare Napoleone, non è che però insomma, vediamo un po'. Ma no, uno signor... che ha dormito nel CARA di Mineo come Salvini, per me può fare qualunque cosa nella vita. Ha dormito al CARA di Mineo. Signori, voglio è tornato a prepotentemente la rubrica Lo psicologo di D'Alema. Dobbiamo trovare assolutamente questa sindrome per Massimo D'Alema. Abbiamo due psicologi, secondo me, pronti a dare a dire la loro, e sentiamo D'Alema. Non ho mai detto non faccio più politica in vita mia. Non mi occupo più d'Italia, mi pare. E in effetti mi occupo molto anche dell'estero, ma tuttavia il richiamo della foresta, devo essere sincero, cioè il richiamo della lotta politica in questo paese è un richiamo irresistibile. Cara dottoressa Lussana, che sindrome potrebbe avere D'Alema? Io intravedo un'assenza di maternage, non è stato accudito nella prima infanzia. Non è un Macron. Rimane questo bisogno di essere amato, accudito, accettato, voluto dagli altri. Quindi sindrome di abbandono materno, potrebbe essere di assenza, abbandono materno. Ha bisogno del consenso del prossimo per la sua autostima. Soprattutto di una mamma. Che dici, caro dottor Perrino? Cosa? Ma D'Alema è un caso molto complesso. È un uomo d'affari ormai, D'Alema, come molti leader della sinistra, da tanto con la sua fondazione. Si occupa di alberghi, di attività, di vini, di resort. E che sindrome ha? Quindi forse ora nostalgia della politica, il ritorno, l'eterno ritorno, gli piace rianimare periodicamente la lite a sinistra. Insomma, la sindrome dell'eterno ritorno, potremmo definirla così. Una sindrome dell'eterno ritorno, va bene, io catalogo e poi dopo vi faremo sapere. Intanto ringrazio Aurora Lussana, un abbraccino a Benedetta ovviamente anche, e Angelo Maria Perrino, direttore di affariitaliani.it. Il segnale orario vi è offerto da... Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. È arrivato Milana Lino. Legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. 7:19 minuti ci siamo, cari ascoltatori, siamo qui. Questa è la rassegna stampa di 24 mattino. C'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è Peter Bescapè in regia, come sempre li saluto. E allora proviamo ad andare a capire cosa ci offrono i quotidiani che trovate in edicola. Dani Alves, c'è già Higuain in mezzo. Palla per lui, Higuain! Vabbè, ma l'anno del triplete è un anno importante. 2-0 Juve! È un'emozione che noi del Milan non abbiamo provato e chissà se mai proveremo. Invece l'Inter il triplete l'ha fatto, la Juventus lo ha fatto quest'anno. E complimenti, sono cose che succedono e bisogna inchinarsi di fronte alla superiorità sportiva e calcistica altrui. Brava Inter qualche anno fa con Mourinho, brava la Juve per il triplete di quest'anno. Allora, in questo... giovedì 4 maggio, i titoli intanto, l'apertura del Sole 24 Ore, RC Auto, farmacie, bollette, il Senato vota la fiducia sul disegno di legge, questa è l'apertura del Sole, il tema della concorrenza, mentre i due grandi temi che tengono banco come titolo di prima pagina sono ancora il tema migranti, il dossier delle accuse, questo è il titolo del Corriere della Sera in apertura, oppure il Messaggero, il dossier che accusa ONG e scafisti, il PM Zuccaro alla Commissione Difesa, un rapporto Frontex sui collegamenti illegali. Per la verità vogliono fermare chi indaga sull'ONG e dare la cittadinanza agli immigrati. Per il giornale Buonisti sbugiardati, c'è la prima ONG indagata. E anche questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Indagata la prima ONG, la procura di Trapani, questa volta non a Catania, favoreggiamento alla clandestinità. La legittima difesa è l'altro tema sui giornali in apertura. Repubblica, ladri in casa, cambia la legge, così si amplia la legittima difesa. Per la Stampa, legittima difesa, si potrà sparare ai ladri in casa. Libero invece, grottesca la nuova legge sulla legittima difesa, puoi sparare ai ladri solo di notte. Il Manifesto invece ha in apertura il blitz a Roma della polizia e poi la morte di un senegalese, secondo la ricostruzione è fuggito, è morto poi di infarto, polizie di primavera, questo è il titolo di prima pagina. Ma voglio partire proprio dalla questione Zuccaro che tiene banco e di cui ci occuperemo anche dopo le 8:15, la questione ONG. La questione migrazioni. Zuccaro parla del ruolo dei libici. Questo è il titolo di pagina 2 del Corriere della Sera. Giovanni Bianconi racconta che Carmelo Zuccaro, 60 anni, a capo della Procura di Catania, ieri ha parlato alla Commissione Difesa in Parlamento e ha parlato appunto di presunte collusioni tra la Guardia Costiera Libica e i trafficanti che fanno partire i migranti, già emerse da altre segnalazioni, ribadite in seduta segreta. E poi ha parlato anche dei contatti via radio, via internet, tra persone che stanno in Libia e parlano di mettere gente in mare con altre a bordo delle navi affittate dalle ONG pronte a prenderle a bordo. E ha parlato anche dei transponder di alcune di quelle navi che improvvisamente si spengono e fanno scomparire il segnale dai monitor dei controllori, forse prima di sconfinare nelle acque territoriali. Nella sua analisi, racconta Giovanni Bianconi, il magistrato catanese sostiene che il numero di vittime del mare non è diminuito coi soccorsi anticipati, perché la presenza delle ONG induce gli scafisti a caricare i barconi di legno oltre misura e a utilizzare gommoni di fabbricazione cinese per nulla sicuri. Il mio focus, dice Zuccaro, non sono le ONG ma i trafficanti. Non ho mai fornito dettagli sulle indagini in corso, ma denuncio un fenomeno, un rischio che coinvolge anche le ONG. Se non lo facessi, la riterrei una forma di connivenza. Ed ecco che la polemica, altro che placarsi, si acuisce. C'è intanto il dossier segreto di Frontex, di cui racconta Fiorenza Sarzanini a pagina 3. In questo dossier segreto si punta il mirino su alcune navi e alcune ONG. Nella relazione sono indicati i mezzi e le relative ONG che, secondo Frontex, non agiscono correttamente. Sea-Watch di Sea-Watch.org, che batte bandiera olandese, porta 350 persone. Aquarius di SOS Mediterraneo e Medici Senza Frontiere, batte bandiera di Gibilterra, 500 persone. Sea-Eye di Sea-Watch.org. Juventa di Jugendrettet.org, bandiera olandese, 100 persone. Minden di Lifeboat Project tedesca, per 150 persone. Golfo Azzurro di Open Arms da Panama, porta 500 persone. Phoenix del MOAS, con bandiera del Belize, che imbarca 400 persone. Prudence di Medici Senza Frontiere, con bandiera italiana, la più grande, con 1000 posti. Gli analisti di Frontex, esaminando le rotte seguite nel 2017, si sono soffermati su modalità di avvicinamento alle acque libiche, monitorando in particolare il periodo dal 13 al 27 marzo 2017, e hanno notato in questo rapporto, secondo loro, qualcosa di strano. Si difende Ruben Neugebauer, portavoce di Sea-Watch, ONG berlinese nata nel 2015, intervistato da Repubblica, da Tonia Mastrobuoni a pagina 3, dice: è una totale scemenza quello che dice il procuratore Zuccaro, cioè che incoraggiamo gli sbarchi e gli scafisti. Mi sorprende che un magistrato possa avanzare tesi folli senza uno straccio di prova, soprattutto senza chiedere chiarimenti a noi o al Ministero delle Finanze tedesco. Né Zuccaro né Frontex ha mai chiesto chi sono i nostri finanziatori. Siamo totalmente trasparenti. Abbiamo 12.000 finanziatori che ci aiutano con una media di 100 euro. Insomma, per le spese in mare mi sembrano un pochino poche, però 12.000 per 100 euro. Comunque, Quindi Zuccaro muove accuse false, è un magistrato che si è dimenticato come funziona la divisione dei poteri e fa politica. Non ha alcuna prova contro di noi, siamo sereni, non le troverà mai. Anzi, ci aspettiamo le sue scuse. Questo è il portavoce della ONG berlinese Sea Watch. Le polemiche continuano, certo sulla questione immigrazione c'è una polemica in Italia perché ieri è avvenuto un blitz della polizia dopo quello di Milano a Roma, solo che a Roma è finita con un senegalese morto, nel senso che la ricostruzione secondo alcuni senegalesi che hanno dato vita poi a una protesta è che nella concitazione una motoretta dei vigili urbani avrebbe fatto cadere questo senegalese venditore ambulante che poi è scappato con tutta la sua merce e poi dopo una lunga fuga si è accasciato al suolo. In realtà da altre ricostruzioni, intanto i senegalesi che hanno raccontato questa cosa, racconta ai giornali, non erano presenti, nessuno avrebbe visto. In realtà la situazione sarebbe più banale, seppure tragica, e cioè questo 54enne che si chiamava Niang Maghet, ambulante da oltre 20 anni in Italia, fugge per il controllo della polizia portando la sua merce, evidentemente stramazza per un infarto e niente, muore così. Le polemiche però ci sono. Per il Manifesto è la vittima del decoro, muore in un blitz, si può morire di decoro, scrive il Manifesto, crollando a terra a pochi passi a Lungotevere dalle vetrine di design, si può morire in uno sbocco di sangue dopo aver passato ore e ore trascinandosi dietro un borsone nero pieno di finte pochette di marca a nascondersi dai vigili urbani della squadra dei Falchi. Ecco, cosa è successo? Beh, il Messaggero, che dedica, come tutti, una pagina a questo, ma il Messaggero, insomma, sulla cronaca di Roma, va anche a sentire un testimone, Stefano Sgarbossa, che ha assistito proprio alla fine, agli ultimi attimi di questo signore senegalese. Abbiamo visto questo signore, si è proprio accasciato. All'inizio abbiamo pensato che avesse battuto la testa su un sasso, una signora ha chiamato il 118, l'ambulanza è arrivata quasi subito, per quel che abbiamo capito ha avuto un arresto cardiaco, i due infermieri dell'ambulanza hanno fatto di tutto per rianimarlo, sono stati degli angeli, devo dire la verità, alla fine si sono dovuti arrendere e un'operatrice del 118 è entrata da noi e ci ha chiesto un sacchetto per mettere tutte le cose rimaste a terra, è stato molto triste. E poi alla domanda avete visto qualcosa dice non c'era nessun inseguimento, nessuno che lo seguisse, perlomeno noi non l'abbiamo visto, non abbiamo neppure visto una moto, ciò che abbiamo visto è che è arrivato qui davanti con le sue gambe e si è accasciato a terra e purtroppo tutto ciò che è stato fatto per rianimarlo si è rivelato inutile. Dopo abbiamo visto la rivolta dei senegalesi a bloccare il Lungotevere addolorati per il loro connazionale. Poi c'è il caso di Milano, insomma la questione della sicurezza che torna prepotentemente evidentemente alla ribalta. Vi segnalo due articoli di cronaca sempre per rimanere in tema, se volete, di disordini, perché ieri un po' di disordini c'è stato a Roma, disordini ben più importanti, se ve li ricordate, quelli dei cortei No Expo. Affondiamo dunque al 1° maggio del 2015, 2 anni fa, Milano devastata, vi ricordate? Eccolo qua, Anna Giorgi racconta sul Giorno, Milano devastata, i No Expo ridono. La procura chiede 44 archiviazioni, secondo i magistrati non erano black bloc perché nel corteo erano a viso scoperto. E dunque, archiviazione per 44 antagonisti che non fecero parte del cosiddetto blocco nero, quelli che sfilò nelle vie del centro di Milano. E insieme alle archiviazioni, PM Alberto Nobili e Piero Basiloni hanno chiesto il processo per 4 giovani anarchici greci per i quali il Tribunale di Atene ha però già negato l'estradizione. E per un italiano, latitante. Quindi 4 greci, no estradizione. Un italiano, latitante, gli altri archiviati. Ale, ma la notizia che invece mi fa più della giornata, ma sicuramente farà più fare voi che siete alla guida in questo momento, avete le mani sul volante, belle, pronte, sappiate, cari ascoltatori, che da un'indagine di Repubblica oggi, un'indagine per la verità, uno studio congiunto Ipsos e Boston Consulting Group, di cui parla oggi Repubblica, pagina 17, per spostarci in auto siamo in coda. Siete in coda. Sappiate che mediamente un italiano passa in coda 23 giorni l'anno. Vi consiglio, dedicate a questo, non so, tutto il mese di gennaio, dal primo al 23 state in coda, fermi, lì vi fate portare da bere, da mangiare, 23 giorni così, e poi la vostra media dell'anno è fatta. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Attenzione, la Fusconi passa Beschepè per Milan che scarta Meazza e gol! Alessandro Milan, il bomber dell'informazione! Signori, mancava anche un tocco di tacco di Lorenzo Nespoli e sembravamo la Juve ieri. Beh, complimenti, il triplete. Bravi, bravi, bravi. Allora, signori, c'è questa polemica partita dal New York Times e che investe direttamente il Movimento 5 Stelle sulla questione dei vaccini, un editoriale anche duro, insomma, perché forse il New York Times, come scrive Margherita De Bacca, pagina 12 del Corriere della Sera, è stato anche esagerato nel dire la colpa della diffusione del morbillo, in pratica, cioè una delle tragedie di quest'epoca, la post-verità, le bugie, le teorie del complotto, le illusioni diffuse, e una delle cause di diffusione del morbillo è la scarsa cultura del vaccino, e il crollo delle vaccinazioni causate da voci ingannevoli sui danni e causate anche dal Movimento 5 Stelle. Questo ovviamente scatena le reazioni politiche. Allora, la rissa tra il New York Times e il Movimento 5 Stelle, questo è il titolo di Repubblica a pagina 9, c'è da dire che Beppe Grillo prende carta e penna e replica. Beppe Grillo ha questa rubrica che ogni tanto spunta sul Fatto Quotidiano, lui che parla al suo neurologo, così si firma, Beppe Grillo e il suo neurologo. Mettetemi assieme a Kim il coreano, allora. Scrive Beppe Grillo, sono sul Fatto Quotidiano a pagina 8, mi trovo addossata la responsabilità del morbillo, così un mercoledì mattina il mio nome brilla minaccioso sullo schermo insieme a quello di altri populisti, rappresentati ormai come una macchia nera che sta conquistando il mondo. In effetti l'argomento malattie infettive si presta bene al vostro intento, ma è davvero poco originale. Un articolo arcaico del New York Times che esprime un compulsivo gioco al ribasso da parte dell'establishment alle prese con fallimenti stellari di ogni sua politica. Pensate che Renzi mi sgrida. Insomma, funziona se riesci a scatenare la canaglia del qualunquismo, ottieni niente. Eppure, e qui Grillo si difende perché effettivamente nei suoi vecchi spettacoli sono state trovate molte dichiarazioni anche contro i vaccini. Eppure nella mia carriera di stand-up comedian potete trovare di tutto. Quando presentavo l'automobile a idrogeno, l'ho fatto per un anno di fila, sono passati 20 anni, mi ostinavo con questa storia dell'automobile a idrogeno, quando c'è già la bomba all'idrogeno. Questo potrebbe mettermi in pole position col leader della Corea del Nord. È più attuale, servitevi pure, nei miei testi c'è tutto, altro che morbillo. Sono anche un Volta Gabbana, troverete video in cui fracasso dei computer. Da bravo populista mi troverete a spingere per il reddito di cittadinanza e l'acqua pubblica. Probabilmente voglio utilizzare l'acqua per diffondere qualche pestilenza. Eppure, poi accusa Beppe Grillo, i veri derivati siete voi, restate voi, anche dopo avermi accostato a Trump, nonostante questa stonatura, mi ritroverete sempre lì, uguale a prima. Siete voi quelli che cambiano a seconda delle compagnie, la finanza creativa che ha atterrato l'intero mondo occidentale continua a fare il bello e il cattivo tempo, le agenzie di rating che davano la tripla A alla porcheria che sarebbe andata in fumo il giorno dopo sono ancora lì. Eppure è evidente, la tecnica dello sputtanamento mediatico taglia global, eppure di misura così nana, non funziona proprio. È preoccupante constatare che davvero la gente non vi ascolta più. Insomma, questo è il sunto dell'intervento, però su questo Renzi pare voler battere molto, perché nel retroscena di Maria Teresa Meli a pagina 12 il Corriere della Sera, l'offensiva web del segretario del PD è proprio questa. Ragazzi, avrebbe detto così ai suoi collaboratori Renzi, dobbiamo inchiodare i grillini sui vaccini, questa deve essere la loro Banca Etruria. Non è possibile lasciar fare al Movimento 5 Stelle disinformazione su un tema così delicato. Dobbiamo far fare ai grillini la figuraccia che si meritano. Devono tornare indietro e chiedere scusa. Ed ecco allora che il leader del PD chiede ai collaboratori di usare tutte le tecniche di comunicazione adatte al web, perché chi di spada ferisce, di spada perisce. Insomma, è dai vaccini, un tema che all'ex premier sta particolarmente a cuore, che riparte l'offensiva del Partito Democratico contro i grillini. E non siamo che agli inizi, avverte il segretario del PD Renzi. Ecco perché il suo tweet, il suo post dicendo Grillo chieda scusa, ritwittato dal sindaco di Milano Sala, dal presidente della Regione Lazio Zingaretti, è il nostro gioco di squadra contro i grillini, fan sapere al Nazareno. E va bene, e parte allora questa nuova battaglia. Signori, invece c'è una nuova legge che fa discutere, che è la legge sulla legittima difesa ampliata. Oggi Liana Milella su Repubblica spiega bene tutte le modifiche in atto. Più licenza di sparare contro i ladri di notte. Ecco, questa cosa del di notte sinceramente è la classica soluzione all'italiana. Per cui ti dicono un po', ma non troppo. Sì, ma anche la Democrazia Cristiana, siamo la patria della Democrazia Cristiana, quindi si può sparare ai ladri, ma se sei impanicato e se è di notte, se c'è un grave turbamento psichico, che soprattutto avviene di notte, fate i metronotte, per cui per voi la notte è il giorno, fatti i vostri. Se per voi la notte è il giorno, perché dormite di giorno, non è notte, e quindi il giudice a maniera discrezionale potrà decidere se per voi è notte. È giorno ma c'è l'eclissi di sole, non so se vale come notte. È giorno ma avete le tapparelle abbassate perché siete così, e non so se vale notte perché è buio, come ci ha scritto e ci ha detto ironicamente ma non troppo un ascoltatore. Siamo il paese del ma anche. Comunque, più licenza di sparare contro i ladri di notte. Liana Milella, pagina 6 di Repubblica, la vittima di una rapina, se avviene di notte, potrà sentirsi giuridicamente più garantita se uccide l'aggressore. Il suo grave turbamento psichico, cioè la sua paura, sarà tenuta in debito conto. Se indagato ma assolto, si vedrà rimborsare le spese legali. La Camera vota oggi la nuova legittima difesa. E come anticipato dalla Repubblica, è un nuovo testo che mette d'accordo PD e Alfaniani, mentre infuria l'opposizione. Berlusconi ufficializza il netto no di Forza Italia, perché la nuova legittima difesa lascia margini eccessivi alla discrezionalità dei giudici. La Lega insorge, in questo c'è anche una, come dire, un primo segno anche di riavvicinamento Berlusconi. Lega, c'è tutto spiegato e per carità, il Far West no, queste frasi stupide. Cosa vuol dire il Far West no? Cosa significa? Il Far West non è in America e c'era tanti anni fa. Però si va avanti per slogan, sta di fatto che anche Paolo Colonnello sulla Stampa oggi intervista a pagina 3 il capo dei GIP di Milano, Aurelio Barazzetta, che dice: qual è il criterio che guida un giudice nella decisione sulla legittima difesa? Il criterio fondamentale è la proporzione tra offesa e difesa. Questo è il requisito fondamentale. Normalmente però chi spara viene assolto, perché se capita che un ladro entri in casa tua armato e tu stia dormendo con moglie e figli, allora il bene che stai tutelando non è più quello del patrimonio che magari il ladro vorrebbe portare via, ma anche quello della tua incolumità e di quello della tua famiglia. E se il ladro era disarmato, qui interviene la legittima difesa putativa. È difficile in caso di rapina notturna sapere se davvero quel ladro è armato oppure no. Niente, di notte. Per chi fa il metro, per chi per esempio vive di notte e dorme di giorno, Mauro Meazza, non lo so se vale la legittima difesa o ci sarà qualche cosa di, non lo so, boh. Ma caro Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Vedremo come l'aula confermerà oppure no, questo l'aula della Camera, intendo, confermerà, sì, oppure no, questo tipo di indicazione. Mi sembra che anche l'intesa politica sia un po' fragile. Invece ieri voto importante sulla concorrenza, caro, sì, Milan, voto molto importante, ne parliamo oggi su Sole 24 Ore, perché dopo 800 e passa giorni è arrivata la giornata decisiva, la prima, perché adesso bisogna aspettare l'altro voto dell'altro ramo. Comunque, qualche cosa si prospetta, sai che per l'energia il passaggio al mercato libero rinviamo al 2019, però per le assicurazioni potranno arrivare degli sconti se metti la scatola nera, e quindi potranno valutare come guidi, e anche se guidi in stato di ebbrezza, ad esempio. Tutto quanto sul Sole 24 Ore a pagina 3, ma io ti consiglio di non fermarti a pagina 3, ma di proseguire e leggere l'intervista al ministro Calenda, che Carmine Fotina oggi ti propone a pagina 4, perché annuncia un ulteriore provvedimento sulla concorrenza, un ulteriore provvedimento di liberalizzazioni, addirittura con decreto legge, ipotizza il ministro. Questo sulle primissime pagine, ma naturalmente oggi, essendo giovedì, è giovedì giusto? Oggi? È giovedì. Ah, sì, no, certo che è giovedì, perché c'è Casa 24. Ah. E su Casa 24, oltre a un servizio sui borghi storici, che sono anche un'occasione di investimento, certo ci vorrebbe qualche milione di euro, vedo che tu sempre invece sei recalcitrante, sì, con i due eurini, non so, forse una pietra si riesce a portarsi a casa, però oltre a questo ci sono anche questioni fiscali, ad esempio una detrazione per le finestre, per gli infissi. Ieri hai preso la guida al 7.30 con il Sole 24 no, Ore? Ammetto, no, non l'hai preso. Va bene. Allora, oggi te la proponiamo sul sito in formato digitale. Puoi acquistarlo sul sito in formato digitale. Dopodiché noi non sappiamo più che fare. Il caso disperato. Vedi di pagare le tasse, perché ad esempio con Google, hai visto oggi sul Sole 24 Ore? Sì. No, non hai... Google sta per firmare un accordo col fisco italiano per 300 milioni, cioè... si chiude a 300 milioni un contenzioso parecchio lungo su imposte non versate, e ti spiega tutto, ti anticipa i dettagli dell'accordo oggi Angelo Mincuzzi sul Sole 24 Ore. Oh, sappi che non solo le nostre due squadre sono cinesi, sì, caro Alessandro, ma come apprenderai avidamente da Finanza e Mercati, anche Deutsche Bank ha un 10% di cinese nella sua proprietà, ed è il socio di maggioranza, il socio, diciamo, più consistente, che ha la quota più consistente. Ti spiegano tutto le pagine di Finanza e Mercati. Siamo sino-tedeschi. Noi siamo più che altro sine e niente, cioè specialmente senza coppa più che altro. Scarsi, però vabbè. Siamo soprattutto. Sì, siamo un po' scarsi, forse più che sino. E dunque, ti voglio in ultimo, ma non per questo meno importante, segnalare, tu hai una partita IVA, caro Alessandro? Può essere. Per una dichiarazione IVA, no, perché vorrei dire che stanno per partire una serie di lettere di compliance, sai che è la compliance? Sì. Cioè abbiamo visto che non sei troppo giusto? Ti mandiamo una letterina all'entrata, stanno per mandare delle lettere, ti spiega tutto Giovanni Parente sulle pagine di norme e tributi che tu leggerai, come sempre. Compulsivamente. Compulsivamente, mi piace, me lo segno. Bravo Alessandro, traffico! Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta... Uewe, Alessandro Milan, viaggiano tizie. Va bene ragazzi, siamo tutti a posto, ma non tuttissimi. Ecco, non tuttissimi in Italia. Allora, mandate le vostre sigle, tra l'altro, se volete, in audio, al 349-238-6666, è il numero WhatsApp. Non c'è più WhatsApp down. Ragazzi, ieri c'è stato il panico. 2 ore di sera, gente nel panico. State tranquilli, è crollato per un attimo WhatsApp, che adesso funziona, potete scrivere i vostri... compulsivamente anche voi, come io leggerò norme tributi i vostri messaggini. WhatsApp adesso funziona. Allora, per chiudere la questione del dibattito sulla legittima difesa, c'è un'intervista al ministro alla famiglia e agli affari regionali con delega alla famiglia. Enrico Costa viene intervistato dal Messaggero, è sempre stata anche un po' una sua battaglia quando era anche al Ministero della Giustizia. Se andiamo a vedere il testo iniziale delle modifiche sulla legittima difesa, si trattava di semplici correzioni parziali. Qui invece siamo di fronte a una rivoluzione che libera chi viene aggredito dall'incubo di un possibile processo, dice il ministro. Quindi vengono tutelate le vittime. è una vittoria per tutti gli italiani. Difende così dalle accuse, si difende dalle accuse dell'opposizione di non aver fatto abbastanza. Queste sono le accuse che provengono soprattutto dalla Lega. Oh, le primarie del PD si sono concluse, basta, le polemiche sul voto, va bene, archiviate, spero, per gli italiani. Vi segnalo un articolo di Marco De Marco sul Corriere della Sera, pagina 9, sullo strano voto in Campania, record e denunce. Ci sono alcuni comuni in cui Renzi ha conquistato il 90%, i PM aprono un'inchiesta a Ercolano perché c'erano molti extracomunitari pro Renzi ai gazebo. Si difende il sindaco di Ercolano, Ciro Bonaiuto, che viene intervistato, fedelissimo di Renzi, e dice: c'erano appena 51 immigrati su 5.000 che hanno votato. Dunque un'inchiesta della magistratura ben venga, non può che essere una cosa positiva. Non c'è nulla nel modo più assoluto che possa mettere in imbarazzo il PD. E non abbiamo chiesto nel modo più assoluto ai migranti di andare al gazebo. Vabbè, ma la solita polemica che c'è in queste situazioni, e viene riproposta anche oggi. C'è molto di Alitalia, ovviamente. Intanto l'intervista a Carlo Calenda, che ha ricordato Mauro Meazza sul Sole 24 Ore, parla anche di Alitalia, per la verità, una domanda e una risposta secca nell'intervista di Carmine Fotina. Vediamo cosa offre il mercato, facciamo lavorare i commissari, valuteremo con grande attenzione la proposta di Renzi quando arriverà. Perché c'è questa proposta di Renzi che pare sospesa fin tanto che non è diventato segretario del PD e che ora forse formulerà nei prossimi giorni. Comunque, sulla verità, vi segnalo due pagine su Alitalia. Pur di rattoppare i buchi dell'Italia, Renzi ci consegna al fondo del Qatar. L'Emirato sarebbe pronto a partecipare al salvataggio, magari in cambio di aperture su temi energetici, come dimostra l'interessamento per Montepaschi. E infatti, cosa c'entra Montepaschi col Qatar, con l'Italia? Claudio Antonelli racconta sulla Verità, pagina 7, le troppe strade del PD che portano a Doha, cioè Doha, capitale del Qatar. Il 19 gennaio scorso, Matteo Renzi, dopo aver visitato Scampia, prende un aereo per Doha, Qatar. I siti ne danno notizia, ma resta mistero fitto attorno ai motivi della visita all'emiro Altani. Si ipotizzano incontri per promuovere la sottoscrizione di obbligazioni della banca Montepaschi, appena nazionalizzata, ma anche una sorta di operazione d'aiuto per risolvere problematiche in cui i catarini sono incappati in Sardegna, dove una fondazione si era imbarcata nel salvataggio del Mater Olbia, ospedale travolto dal clac del San Raffaele a Milano. Il sito doveva garantire cure di altissimo livello e 600 nuovi posti di lavoro in una regione come la Sardegna, ma oggi le porte non sono ancora state aperte. Le ipotesi fatte dopo il viaggio di gennaio non sono mai state smentite, ovviamente neanche confermate. Ma a raccontare il filo continuo tra l'entourage del PD di Renzi e l'Emiro ci sono una serie di investimenti portati a termine. Quella che l'Espresso ha chiamato la Qatar Connection: banche, alberghi, armi, navi da guerra, compagnie aeree, sport, cultura. Da mesi l'Italia è il fronte più avanzato dell'offensiva lanciata dal Qatar. E Renzi, in un modo o nell'altro, scrive l'Espresso, si trova al centro di questa ragnatela tra politica, alta finanza e diplomazia. Insomma, un legame, secondo la Verità, tra il Qatar e il PD, Renzi e l'Italia, gli investimenti e dunque la possibile svolta anche nell'Italia. Trovate anche molto di esteri del confronto ultimo, finale, tra Macron e Le Pen. Sei un banchiere, la Le Pen a Macron. Tu sei una bugiarda, Macron a Le Pen. Finisce così in rissa verbale. Per carità, vedremo chi sarà il vincitore. Va bene, siamo all'ultima notizia del giorno. Come sempre, la notizia è l'articolo della carta costa, cioè l'articolo più inutile che ho scovato sui giornali. Oggi Noemi Azzurra Barbuto scrive un'intera pagina di Libero che vi interessa, cari italiani. Le corna fanno bene, rendono ingegnosi e creativi, fanno digerire la routine. Per gli psicologi le corna fanno bene. Ma chi se ne frega!